ricordo più quella voce che mi diceva non star fermo lì, non aspettare che gli eventi dicano sul tuo destino. Che rende vivo l'essere umano è affannoso ormai, per le corse perso niente, tra gli errori sai, mutano i pensieri, guardando in faccia 100.000 errori, cambiano i valori, di tornare giù in terra. In casa mia, prigioniero di una cultura, sensazione di disagio permanente, inculcato nella mia mente, cambiato gli scenari, storie patite fino in fondo, immagini a colori, non distinguiamo più in terra.